9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci cari ascoltatori, questo venerdì prima di Ferragosto, e oggi parleremo di una questione in effetti calda, anche se nel nord, a dire la verità, il caldo per fortuna non c'è più. Perché cosa è successo? È successo che il segretario dell'Italia dei Valori di Messina ha depositato a un bel po' di procure una bella denuncia, un esposto denuncio contro Umberto Bossi, perché Umberto Bossi qualche giorno prima, il leader della Lega, in un comizio d'Arcene se n'è uscito a un certo punto con la seguente espressione: basta con questo stato delinquente. Allora parteremo da questo spunto e io esplicitamente vi dichiaro che, poiché ogni giorno concludo dicendo che questo è uno stato corruttore, mi batto. Quindi iniziate pure a dire come la pensate. Mi batto perché il leader della Lega possa, argomenti alla mano, dire e ripetere che questo è uno stato delinquente. Lo so che sarà un tema che divide, parleremo poi anche di Cavour, del bicentenario della sua scomparsa che non ha visto praticamamente quasi nessuno ricordarsene, parleremo del Cavour federalista di cui parlano alcuni saggi vicini anche a un'ispirazione leghista, parleremo insomma del nord e del sud di fronte a questo quadro in cui la politica parla di altro e sembra anche esaminare l'ipotesi di lasciar per strada esattamente quella riforma federalista che ci aveva promesso. Stato delinquente, sì, stato delinquente. A tra poco, Lina Giornale Radio. 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un buon venerdì 13 di agosto, l'ultimo appuntamento prima del Ferragosto per quello che mi riguarda e anche per la prossima settimana, perché mi sostituirà Fabio e poi tornerò subito dopo il lunedì successivo. Inizio con una correzione immediata, anzi due correzioni, e quindi inizio questa ultima trasmissione prima della pausa ferragostana bacchettandomi le dita, perché è sempre un buon costume per un conduttore capire che voi che siete in ascolto siete perfettamente in grado di correggere i suoi errori. Fate bene a segnalarglieli, perché io vi sono grato per questo, e ogni tanto bisogna che io poi faccia anche di anche soddisfazione pubblica degli errori che commetto. Tanto è vero che lo spunto di due errori che ho appena compiuto nel presentare la trasmissione: primo, non è affatto il bicentenario come sacrosanto, e come invece mi è sfuggito di bocca, della morte di Cavour, visto che Cavour è morto il 6 giugno del 1861, noi stiamo entrando nel 150esimo dell'unità italiana. Questo era lo spunto, vedrete che poi torneremo a parlare di Cavour. E poi, secondo errore, ho citato il paese nel quale Bossi ha pronunciato il comizio di cui parleremo all'inizio di questa trasmissione, sbagliandone l'accento, perché il comune che sta sulla statale da Treviglio che va a Bergamo non è Arcene, come ho detto io, ma Arcene. E allora mi si segnala, naturalmente, e allora ne trago spunto per dare soddisfazione anche a una ascoltatrice gentilissima che mi ha bacchettato per un errore che ho commesso qualche giorno fa, un altro errore, perché quando mi avete sentito dire e reiteratamente insistere scandinavo, quindi proparossito, no? E invece ogni volta ho sbagliato, perché la dizione corretta è scandinavo parossitono, come prevedono le norme accentuative dell'italiano. E io devo ringraziare la professoressa Roberta Cella, che è professore associato di linguistica italiana a lingua e letterature straniere a Pisa, che mi ha mandato una cordialissima lettera pregandomi naturalmente anche di riderci sopra, ma io non ci rido affatto sopra, perché poiché alla mia non più verde età, a dire la verità, io ho sempre pronunciato scandinavo invece che scandinavo, non posso che essere grato per chi ancora mi sa prendere per mano con un buon sorriso e condurmi sulla strada a volte impervia della lingua italiana. E per chi fa un conduttore e per chi scrive di mestiere, questo è sempre motivo di gratitudine, dimostrare a se stesso che bisogna sempre continuare a imparare. Fine di questo primo di questo incipit autocritico, per entrare subito nel merito del tema della giornata. Il tema della giornata ha come spunto questa vicenda che porta il Salvatore Mammola, segretario dell'Italia dei Valori di Messina, a depositare le procure di Messina, appunto, e poi di Roma e di Bergamo e a mandare in copia poi i suoi esposti al Tribunale dei Ministri e al Presidente della Repubblica, un esposto in cui si denunciano Umberto Bossi, il leader della Lega, per vilipendio, offese, minacce allo Stato italiano, violazione del giuramento di fedeltà alla Costituzione. Il vilipendio per che cosa si configurerebbe a giudizio di Salvatore Mammola, segretario dell'Italia dei Valori di Messina? Per il fatto che in un comizio avvenuto ad Arcene all'inizio di agosto il leader della Lega avrebbe detto, leggo il virgolettato, lo Stato è delinquente, ci ha portato via risorse, attenti però a non rompere troppo i coglioni, leggo, alla gente del Nord. Applausi nel comizio. Allora, iniziamo sentendo direttamente da colui che si è sentito non solo offeso in quanto cittadino, ma che vi ha visto gli estremi di una fattispecie di reato serie e che quindi ha deciso di intraprendere questa azione nei confronti del leader della Lega. Abbiamo a telefono Salvatore Mammola, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a lei. Ecco, io direi come, innanzitutto come l'ha saputo, perché visto che da Messina eccetera l'avrà letto da qualche parte, così via, e poi come è scattato in lei l'intenzione e poi la decisione di procedere in questa maniera, perché in realtà potrebbe ampiamente rientrare nella libertà di opinione insindacabile di un parlamentare che il leader della Lega si esprima come più volte in passato così, ecco, ma però ci dica. Allora, come l'ho saputo, le ricordo, e come lei sicuramente ben sa, la Sicilia è collegata con tutti, sia su internet sia con tutti i quotidiani d'Italia, visto che fa parte appunto dell'Italia. Poi il ministro Bossi non rientra, secondo me, nella libertà di espressione di un deputato, quindi nella libertà di politica, perché il ministro Bossi ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica fedeltà alla Repubblica, ha giurato di osservarne la Costituzione che infrange e le leggi, di esercitare le funzioni nell'interesse della nazione, ovviamente della nazione italiana, e quindi secondo me non questo suo linguaggio poco forbito, anzi volgare e minaccioso, è lesivo della dignità, oltre che dello Stato italiano, che è unico e indipendente, anche della dignità del popolo italiano e soprattutto del popolo del settentrione d'Italia, perché il signor Bossi dall'87 parla di un fantomatico Stato padano che è in contrasto, come lei mi insegna, con l'unità e l'indipendenza della Repubblica Italiana, che viene garantita appunto dalla Costituzione. Bossi, non giornalmente ma quasi, offende lo Stato italiano, offende gli organi dello Stato e i cittadini sia del Nord che del Centro che del Sud, dimenticando che viene pagato profumatamente dallo Stato italiano, ripeto, dallo Stato italiano, non da quello padano, e viene pagato non per insultare e minacciare i suoi cittadini. Parla anche nel suo discorso ad Arcene, Arcene, benissimo, ho imparato anche questa, e parla anche di una magistratura che cambia le leggi. Io da quel poco di costituzionale che ho studiato, la legge e la magistratura la può soltanto applicare, ma forse il ministro di studi di diritto ne ha fatti pochini. Vabbè, quindi cosa chiede? Io chiedo che si proceda penalmente nei suoi confronti, per appunto per quelli che possono essere i reati ravvisati nel mio esposto. Posso dirle, Mammola, che... Anche perché mi scusi... No, prego. Lui parla di stare attenti alla gente del Nord, attenti a non rompere troppo... I coglioni, ma insomma il termine è quello, non è che ce lo inventiamo noi. I testicoli è più elegante. È più elegante. Ha usato un altro termine il ministro. Certo, io conosco bene la gente del nord, non credo proprio che bisogna stare attenti alla gente del nord, perché la gente del nord è gente che lavora, come lavorano le persone del sud, quindi non penso che ci siano, come dice lui, a parte che secondo me con la matematica non è molto portato, perché parla e non di 20 dia giudizi milioni. Personali, siamo ai fatti, perché sennò poi diventa una cosa. No, dico, parla di 20 milioni di padani pronti a scendere, dico, noi siamo 60 milioni in tutta Italia. Anche con vabbè, comunque insomma, io adesso esposte le sue ragioni le spiego perché mi ha colpito molto questa sua iniziativa. Perché nella nostra trasmissione qua, cioè, mi assumo io la responsabilità di questo, da molti mesi noi ci troviamo anche due o tre volte a settimana, ma comunque con una frequenza molto elevata, a documentare ai nostri ascoltatori e a documentare, cioè io non faccio questione politica, io non sono alla testa di un partito, non solidarizzo né devo criticare, devo sforzarmi che le mie opinioni incidano molto poco nel fatto che invece tentiamo di proporre numeri e fatti, e quelli poi con i nostri ospiti li approfondiamo e i nostri ascoltatori si fanno l'idea che è legittimo che si facciano la rete. Però ci è capitato in quest'ultimo anno, ma innumerevoli volte, per esempio con Luca Ricolfi, per esempio con il professor Antonini, che è il presidente della commissione tecnica del federalismo. Luca Ricolfi, lei lo sa, ha scritto libri su libri in cui propone una reinterpretazione, un'estensione dei termini della contabilità nazionale. I numeri di Luca Ricolfi sono i numeri sui quali tantissimi elettori in crescita hanno dato il loro consenso. Prima nel processo di crescita, di radicamento della Lega, poi insomma la Lega è diventato, e si è visto ancora le ultime regionali nel nord, è una specie il pilastro del centrodestra nel nord. Ma perché glieli hanno dati? Glieli hanno dati perché c'è minaccia nei confronti dello Stato unitario? No, glieli hanno dati perché Ricolfi spiega, numeri alla mano, che se adottassimo un criterio di amministrazione efficiente e rigorosa sui costi dell'acquisizione degli input e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, e se a questo aggiungessimo anche tassi di adesione spontanea all'ordinamento sulle imposte paragonabili, prendendo come esempio quelli di regioni del nord come la Lombardia o come il Veneto, ma non perché sono nordici rispetto a una differenza antropologica del sud, ma perché i numeri dicono questo, ebbene l'Italia avrebbe, il contribuente italiano al nord come il sud, se regola con le tasse, avrebbe di che risparmiare più di 80 miliardi di euro l'anno. I numeri tante volte li abbiamo approfonditi, li abbiamo sviscerati, abbiamo visto quanto in questo c'è di sanità, quanto in questo c'è di assistenza, quanto in questo ci sono di finti invalidi, quanto in questo c'è di evasione di massa in tre regioni italiane, delle imposte dirette e indirette, dell'IRAP e così via. C'è un doppio criterio: lo Stato, che è organizzato in una maniera localmente da sprecare, dilapidare e intermediare troppo reddito, e c'è una seconda questione: l'effetto di questa organizzazione dello Stato, che ha indotto nei decenni, non perché antropologicamente con un DNA viziato e tarato, ma per adesione all'eccesso di intermediazione di risorse e di spreco di risorse da parte del pubblico, le popolazioni locali e gli elettori ad avere tassi di rispetto della legge fiscale innanzitutto molto più bassi di quanto non avvenga laddove invece lo Stato tende a essere più magro e più efficiente, perché ha molti meno trasferimenti in relazione alla qualità di ciò che deve dare. Allora noi da questo abbiamo sempre iniziato a dedurre una formula che uso incessantemente: uno Stato organizzato in questa maniera, come ho di nuovo sintetizzato, non do giudizi politici, non perché è il colore pro tempore del partito o del premier al comando, è uno Stato i cui effetti mi consentono di dire, come cittadino, senza secondo me incorrere in alcun reato, mi consente di definirlo, mi obbliga a definirlo se sono coerente nel dare questi nomi, uno Stato corruttore. E io lo ripeto sempre questo, e mi auguro che nessuno voglia denunciarmi alla magistratura. A maggior ragione, perché il leader della forza politica, che è di Riff o di Raffa, ci piaccia o meno, ma ha fatto di questo tema il tema che prima non c'era nella politica italiana, non potrebbe dire che uno Stato che continua a chiedere a Nord pacchi boccate di miliardi per, in cambio, non spostare di uno zero virgola la propensione allo sviluppo del Sud, perché questo ci dicono i dati, perché non potrebbe dire che è uno Stato delinquente? È uno Stato delinquente non per il colore pro tempore del governo, tanto è vero che poi è il governo a cui Bossi dà i voti e i suoi, ma perché è uno Stato la cui organizzazione porta i cittadini a credere che sia più conveniente delinquere vista l'inefficienza dello Stato. La mia opinione, lo dico apertamente, è che Bossi in questo caso fa il suo mestiere. Poi vi potrà non piacere, potrete pensare, come è giusto, come pensa Mammola, come Mammola e tutti coloro che la pensano come loro, legittimamente si battono. Non voglio dare i voti a Bossi, spero che diminuiscano, ma qui stiamo parlando di legittimità nel fare politica. Allora, dopo aver sentito Mammola e dopo che io purtroppo vi ho dovuto dire come la penso, non perché sia leghista, ma perché penso che questo sia un tema fondamentale e anzi mi scandalizza che la crisi politica lo metta in un angolo, come se non fosse il tema dei temi, quello di risparmiare per avere servizi migliori per i cittadini invece che sapere la moglie, l'amante di chi ha comprato la casa, dove e come. Sì, abbiamo diritto a saperlo, ma prima vorrei capire se ci guadagno qualcosa o ci perdo da questo andazzo in Italia. Ora sentiamo anche la controvoce di Matteo Salvini, deputato europeo della Lega Nord. Buongiorno Salvini, come reagisce la Lega a questa richiesta che viene dall'Italia dei Valori? Con un sorriso e con una preoccupazione. A Messina ci sono 3.336 baracche per il terremoto del 1908, quindi di 102 anni fa. Se non è uno Stato delinquente quello che dopo 102 anni lascia qualche migliaio di persone a vivere nelle baracche, nella città del signore che poi denuncia Bossi per quello che dice in provincia di Bergamo, mi preoccupo per i messinesi e sorrido appunto per simpatia politica, però a quello che ha detto lei c'è poco da aggiungere. Lo Stato porta via risorse, 50 miliardi di euro all'anno, secondo non Bossi, non Salvini, ma il professor Luca Ricolfi, che i dipendenti regionali in Lombardia siano 3.000, in Regione Sicilia più di 20.000, è lì da vedere e ci sembra cosa bizzarra. Che la Sicilia con Lazio, Campania e Calabria abbia fatto 3 miliardi di buco in sanità l'anno scorso è lì da vedere. Io sono in Parlamento europeo, a proposito di Stato delinquente, io mi sto occupando nella mia commissione mercato interno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei fornitori privati. Il tempo medio di pagamento in Italia della pubblica amministrazione, quindi le ASL, i comuni, le regioni, lo Stato, i ministeri, è di 128 giorni con punte di 600 giorni al sud. In Europa la media è di 40 giorni. È uno Stato strano che stiamo cercando di cambiare da Roma, stipendiati da Roma, da Milano, da Bruxelles per cambiarlo questo Stato, perché lo Stato lo cambia in due maniere, o coi fucili, e non è la via che in democrazia si sceglie e col buon senso si sceglie, o col voto, o col consenso popolare, che noi a Nord raccogliamo anche perché, ripeto, è sempre di più la gente che non capisce perché deve pagare la tangenziale a Milano mentre non si paga la tangenziale a Roma. Poi per carità, come Lega abbiamo i difetti, esageriamo nei toni, facciamo il gestaccio, non ci mettiamo la cravatta, andiamo in giro ogni tanto con i pantaloni corti, per carità di Dio sbagliamo come tutti gli altri esseri umani. Però dire che questo è uno Stato strano, è uno Stato che fa fallire migliaia di imprese perché paga con due anni di ritardo, mentre tu se paghi una bolletta con una settimana di ritardo hai la mora e la sanzione, mi sembra dire una banalità. E che un segretario di un partito, ripeto, di Messina, con tutti i problemi che ci sono a Messina e in Sicilia, si preoccupi di quello che fa e che dice Bossi, mi preoccupa non tanto per la gente del nord, ma per i messinesi in primis. Allora, una domanda da parte mia per Mammola, perché il confronto ha bisogno di approfondire, poiché la cosa che mi ha colpito è che la dichiarazione che ha sollevato la sua indignazione e che l'ha indotta poi alla reazione giudiziaria è una dichiarazione di quelle in cui non è che Bossi stia minacciando la secessione, dà un giudizio sullo Stato. Io resterei proprio sulle parole. Mi ha colpito il fatto che l'iniziativa venga da un esponente di un partito, cioè l'Italia dei Valori, che proprio sulla legalità, tante volte ne parliamo anche qui con gli amici del Fatto, ospiti, con l'onorevole Di Pietro che chiamiamo, questa forza politica fa della legalità e della diffusissima illegalità, per come in concreto la politica poi esercita male le sue funzioni, una pietra miliare, una caratteristica di fondo dell'iniziativa politica dell'Italia dei Valori. Allora, per questo le chiedo, il giudizio nei confronti dello Stato, e cioè in parole povere di chi politicamente lo amministra pro tempore, tanto da far assumere poi allo Stato logiche ordinamentali di funzionamento che sono quelle di lungo periodo, ma perché poi alla fine è un giudizio sulla politica, la politica predominante, non su una specie di Moloch, entità astratta che è intoccabile per definizione, perché altrimenti saremmo fregati. Se poi noi dobbiamo rispettare l'idea di Stato per com'è in ogni sua articolazione, non potremmo più cambiarlo. Ma allora, mammola, mi spiega perché, proprio se da parte vostra siete legittimamente convinti, è la ragione del vostro consenso, anch'esso crescente, che sia una politica che si mette la legalità sotto i piedi, non bisogna poi poter dire che lo Stato è delinquente, perché lei dice che in questa espressione si insulta ogni magistrato e ogni carabiniere? No, si insulta tutti i cittadini italiani, perché lo Stato, mi hanno insegnato che lo Stato siamo tutti noi. Poi volevo dire all'onorevole Salvini che le baracche di Messina non sono lì da 102 anni, non sono le baracche del terremoto, sono delle baracche che sono state costruite successivamente e sono baracche che io in un'amministrazione di centrodestra, insieme ad altri cittadini messinesi, portando Rai 3 sul posto in un villaggio pieno di Eternit, siamo riusciti a fare sbaraccare questo villaggio. Quindi non... Purtroppo quello che passa a livello nazionale è completamente diverso da quello che è la realtà. Il nostro deputato locale, l'onorevole Scilipoti, fa continuamente battaglie sulle baracche che ci sono qui a Messina, ma io non vedo Bossi che parla delle baracche di Messina, tra l'altro non sono quelle del terremoto. Ma vede, ma anche lì mica la colpa è dell'Italia dei Valori che ci siano, ma la domanda è, no, ci sono state per... La colpa, mi scusi. La colpa è dei governi, purtroppo di centrodestra che si sono... Ma va bene, vede che lei la mette in la questione è, responsabilità di governi loro, che per decenni hanno fatto stare queste baracche in piedi, cioè è... colpa delle amministrazioni pubbliche. Lei certo accentua sul fatto che fossero di un colore o di un altro. Ma le amministrazioni pubbliche non sono lo Stato. Le amministrazioni pubbliche non sono lo Stato. Che cos'è lo Stato se non il concreto ordinamento? Lo Stato comunità, guardi, se vuoi le tengo una lezione di diritto costituzionale. La ringrazio. Ma non perché penso che lei non abbia bisogno, ma lo Stato è... la sua concreta organizzazione territoriale, centrale, lo Stato comunità, lo Stato persona, quello che si insegna sui diritti costituzionali. Che cos'è lo Stato se no? Sì, ma negli anni in cui Bossi insieme a Berlusconi ha governato, mi deve perdonare se torno sempre su governi. Legittimamente, non è che io possa dire giustamente. Negli anni in cui Bossi con Berlusconi ha governato, sì, cosa ha fatto? Perché ha avuto la possibilità di governare, di poter cambiare qualcosa, ma cosa ha fatto per, a parte farsi qualche leggina così, cosa ha fatto per cambiare le amministrazioni, per... Allora, portare, come ha detto lei, ha parlato di legalità, l'Italia dei Valori ha su questo questa... A me non spetta dare la risposta politica. Io penso che la legalità debba essere alla base lei deve... di ogni governo. Io posso dire una cosa, che se fosse un dirigente nazionale dell'Italia dei Valori, lei giustamente di Messina si batte e ha ottenuto, come vede, un bel colpo, insomma, perché come me organi nazionali, Oggi Giornale e così via amplificano molto la sua iniziativa, quindi lei ne ha fatta una giusta, per così dire, dal punto di vista della comunicazione. Però anche altre, ma no, io sto dicendo, sì, ma mamma mia, ma quanto è, mica non la conosco, sicuri se mi permetto di criticarla. Dico però che agli occhi di milioni di elettori del nord, che da 20 anni, 25 anni danno il voto chiaro alle elezioni nazionali e locali, perché dicono dateci un sistema di rendicontazione delle risorse con più risorse fiscali nelle mani delle amministrazioni vicini al livello dove votiamo, perché vogliamo vedere come si utilizzano i soldi, e che in cambio a livello nazionale consenta meno sprechi, inefficienze e ruberie nel resto d'Italia, questo gli elettori, quando vedono che di volta in volta la politica non glielo dà, e oggi c'è di nuovo il rischio che non glielo dia per quello che sta succedendo tra Fini e Berlusconi, questi elettori, secondo me, il motivo vero per cui alla fine danno sempre più voti a Bossi è perché chiedono una cosa concreta, quello che lei dice, che cosa hanno fatto. I leghisti sbaglieranno o lei potrà non essere d'accordo, questa roba è il motivo essenziale della loro politica. E allora io penso che a milioni di italiani nel nord, purtroppo o per fortuna, io sono tra quelli che dicono per fortuna, quella frase sullo stato delinquente gli piace proprio, perché se per l'ennesima volta ce ne andiamo a votare e buttiamo nel cassetto, sì lo so che la delega per il federalismo resta in piedi anche se cade il Parlamento, però insomma si butta per l'ennesima volta nel bagno tutto ciò che era stato fatto per tentare di attuarla, e ho sempre spiegato che i numeri devono ancora arrivare, allora lei capisce però che... E il minimo da dire è che probabilmente, secondo me, avrà ancora più consenso chi dice bene, ricominciamo, ancora più voti a chi chiede questa cosa che il resto d'Italia non gli vuole dare, perché potrei fare lunghissime dichiarazioni di esponenti politici, degli esponenti vicini all'onorevole Fini, dell'onorevole Casini, che dicono ma quale federalismo? Non è un problema. Questo è il punto, non è un problema, 80 miliardi di euro, 50 se parliamo solo di spese, diventano 80 se ci mettiamo anche l'evasione fiscale, ogni anno che gli italiani devono far finta di non vedere che vengono depredati dalle loro tasche. Ma di cosa vogliamo parlare? Allora, della politica la colpa è di Tizio o di Caio? Per me la colpa è di chi mi ruba 80 miliardi, e chi me le ruba è un ladro, e se è lo Stato, io dico che è lo Stato il ladro. Pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio dopo le parole dell'onorevole Bossi, stato delinquente, e l'iniziativa del segretario dell'Italia dei Valori, lo avete sentito parlare a lungo, di Messina, Salvatore Mamola, che invece dice no, questo è vilipendio, io chiedo alla magistratura di intervenire e sanzionare l'onorevole Bossi. Alcune considerazioni, forse mi sono diffuso troppo, sì, però insomma è anche vero che 80 miliardi, ma 80 miliardi, io non lo so se 80 miliardi abbiamo l'idea di quanto sono, 80 miliardi. Ma sentiamo come la pensano un po' dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Matteo da Cesena. Dica Matteo. Buongiorno Giannino, salve. Allora, io penso che avendo una piccola bottega artigiana, che uno Stato che non mi permette di fare le fatture ai miei clienti, perché i miei clienti non le vogliono, e non le vogliono vuol dire che io se gli imponessi una fattura su un restauro di un mobile, loro andrebbero da un altro, dai 100.000 che lavorano in nero, quindi io sono costretto, sarei costretto fondamentalmente a fare delle fatture false a fine anno e pagare io l'IVA di tasca mia. Uno Stato dice, però è così, arrangiati. È uno Stato che è corruttore, come dice lei. Uno Stato che mi vuol far caricare un estintore una volta all'anno, uno Stato che non mi fa i parcheggi, poi mi fa la multa tutte le volte che io devo andare da un cliente perché sono costretto ad andare col furgone, non riesco, e poi mi fa la multa, per cui le multe è diventato un capitolo di spesa per gli italiani enorme. Lei non mi crederà, ma ogni cesenata ha un cassetto per le multe, cioè io sono, quindi insomma per una serie di ragioni questo è uno Stato in cui il cittadino non può aver fiducia, per cui tirerei in barca. E quando l'onorevole Bossi dice stato delinquente, la sua reazione fa benissimo, fa benissimo. Io mi meraviglio che perché voglio dire, amministrare la cosa pubblica è anche un lavoro umile, modesto, fatte di piccole cose che gli amministratori non guardano. Allora, anziché interessarsi di esternazioni nazionali, un dirigente provinciale dell'amministrazione locale, ma dovrebbe avere 3.000 cose a cui pensare, ma a livello interiore non se ne dovrebbe fregare, dovrebbe lasciarle a Di Pietro poi la controreplica a queste cose qui. Quindi questo denota proprio anche una spocchiosità, voglio dire, si occupassero delle strade, andare a vedere se quando finiscono gli appalti i marciapiedi sono fatti bene. Ecco, voglio dire, nasce da questo. Come fanno i tedeschi? Grazie, tedeschi. Ecco, come fanno i tedeschi? Lei evoca il paese che noi dovremmo considerare benchmark per quello che sta facendo sul commercio mondiale come export, per il suo rigore nei conti pubblici. Noi abbiamo messo i saldi pubblici in sicurezza con la manovra, ma abbiamo bisogno di più produttività, più competitività, più accordi nelle singole aziende, come hanno fatto in Germania 5 anni fa, lo abbiamo detto tante volte. Bisogna guardare alla Germania, non perché i tedeschi siano i crucchi efficienti, ma perché a volte ci danno lezioni, e bisogna sempre guardare quelli che funzionano con un passo più veloce se vogliamo che l'Italia cresca di più. La domanda che faccio a Matteo Salvini prima di salutarlo, perché poi ha da fare, è rispetto a come si sono messe le cose in politica, la valutazione condivisa diciamo dal vertice della Lega è che quanta pazienza bisognerà avere, bisognerà farsi andare tutto bene, aspettare un nuovo patto quarto di legislatura, oppure a un certo punto la pazienza della Lega può essere che finisca e a quel punto si dice guardate, noi abbiamo un mandato, vi abbiamo sempre chiesto una cosa chiara, se non la possiamo avere comunque vi salutiamo e torniamo dal nostro popolo elettorale a farci dare voti in più. Qual è il limite oltre il quale la pazienza finisce della Lega, secondo lei, pur sapendo che mi dovrà dare una risposta diplomatica, ma insomma... Guardi, qua il problema non è quando finisce la pazienza della Lega, qua c'è il problema sono le casse integrazioni e i licenziamenti, quindi a prescindere da quello che succede alla Lega al nord, in Padania, o se, secondo qualcuno la Padania non esiste, secondo noi esisterà, rischia di esaurirsi la pazienza di coloro che stanno cercando di lavorare da queste parti. Noi siamo in mezzo al fiume, Adda. I decreti sul federalismo, io seguo spessissimo le vostre trasmissioni la mattina perché imparo anch'io, e siamo a due terzi del cammino. Lei capisce che se per le bizze, i cambi di idea, le capriole di qualcuno, questo cammino si interrompe per 2, 3, 4, 5 mesi, perché una campagna elettorale ovviamente avrà polemiche televisive, nuovi programmi, nuove alleanze, perdiamo del tempo, il tempo è denaro da questo punto di vista. Piuttosto che Pastrocchi, la Lega l'ha detto, si va al voto, figurarsi, piuttosto che il Montezemolo di turno, tanto vale chiedere alla gente in Italia se vuole andare avanti o se vuole tornare indietro. Io le segnalo che frequentando, io sono a Milano in questi giorni, in queste settimane, giro tanti incontri pubblici della Lega ad Arcene, a Melzo, a Pontida, nel Lecchese, la gente ha l'ultima chance, dice o si cambia adesso oppure c'è tanta polemica oggi su qualche giornale perché la regione Veneto ha come modello la Catalogna, quindi sempre più autonomia locale, fiscale, linguistica. Io temo per l'Italia, e lo dico da rappresentante della Lega Nord, per l'indipendenza della Padania, e noi ce l'abbiamo nel nome che questo Stato secondo me è qualcosa che non funziona, però per assurdo siamo gli ultimi tentativi per tenerlo insieme questo Stato. Secondo me più che un problema per la Lega e per il Nord, sarà un problema per l'Italia che abbiamo conosciuto in questi 150 anni se salta tutto il federalismo non arriva. Detto questo, noi siamo pronti, noi la gente la incontriamo 365 giorni all'anno, quindi se c'è da andare a votare non siamo certo preoccupati. Va bene, quindi diplomatico ma chiaro. Attenzione che il rischio che sia l'Italia a non reggere il passo è un rischio vero, cioè qui non si tratta di diversi politicamente, si tratta di essere consapevoli che questo rischio esiste, perché il differenziale di produttività, il differenziale di partecipazione alla formazione degli attivi commerciali con l'export manifatturiero che c'è nelle due Italie è veramente così netto che dovrebbe preoccupare molto, invece di pensare che tirare fuori questi argomenti sia un attacco all'unità o magari una mancanza di rispetto agli incolpevoli cittadini del sud, incolpevoli perché sono l'effetto di lungo periodo nei loro comportamenti di incentivi e disincentivi pubblici sbagliati che producono un surplus di illegalità che è effetto di come è organizzata la mano pubblica nel sud. Non è lo Stato eroicamente in lotta contro l'antistato, e lo dico porgendo il più assoluto senso di gratitudine che tutti dobbiamo alle forze dell'ordine e della magistratura che ogni giorno fanno l'impossibile e anche di più contro le mafie, le camorre, le 'ndranghete. Ma il problema è che quella roba lì, cioè l'intermediazione per pacchi di miliardi di euro di economia nera e illegale, dipende da come è organizzato l'eccesso di intermediazione pubblica. Allora, di fronte a questo c'è anche chi poi pensa: ma se un giorno l'Italia non riuscirà mai a uscire via da questa strada di riforme richieste che ogni volta poi si incarta, si accartoccia e cappotta, perché non pensare che qualche provincia del nord, limitrofa, confinante con la Svizzera, non possa poi un giorno liberamente scegliere a maggioranza per referendum di chiedere alla Svizzera di fare un territorio comune con sussidiarietà e federalismo fiscale comune, secondo l'esempio di questo strepitoso paese che per me è un esempio di civiltà da secoli, qualunque cosa voi possiate pensare delle sue banche, viva il segreto bancario, questa è la mia opinione. E allora in Svizzera, ne abbiamo parlato più volte, c'è stato sono parlamentari dell'UDC, che è un partito conservatore che ha preso sempre più voti dagli anni 90 in poi, che hanno anche depositato una proposta, lo hanno fatto in maniera un po' provocatoria, lo stesso partito partito ne ha preso in qualche misura le distanze, però torniamo a parlarne oggi con Oscar, si chiama come me, ma lui è molto più autorevole di me, Oscar Freisinger, che è deputato al Parlamento svizzero dell'Unione Democratica di Centro. Buongiorno Freisinger. Buongiorno. Allora, questa proposta che spesso ha fatto sperare i giornali, diciamo, delle parti d'Italia che confinano con voi, soprattutto nel Comasco, è una proposta, lo ripeto ancora una volta, provocatoria. Ma chi l'ha detto che la lunga storia in definitiva di confederazione della Svizzera, che nasce e poi si allarga per adesione spontanea delle popolazioni, non debba un giorno registrare un nuovo allargamento con qualcuno che anche dal nostro paese dice: vi preghiamo, annetteteci, dateci l'esempio di come si fa, spendendo molto di meno e con molte meno tasse, a essere così efficienti? È davvero una provocazione? No, non solamente una provocazione, è anche una possibilità per il futuro, perché la Svizzera ha riuscito a fare quel che l'Unione Europea non ha potuto fare, perché è un sistema inventato dalle elite e non dal basso, dal popolo. In Svizzera c'è questa possibilità del popolo di essere l'opposizione al governo, che si può esprimere 4 volte l'anno, eccetera. C'è la prossimità tra il potere e la gente, e c'è un equilibrio fra i cantoni e il potere centralizzato a Berna. Allora, noi vogliamo solamente dimostrare che c'è un altro modo da fare che il modo dell'Unione Europea, e invitiamo quelli che potrebbero trovare interessante questo modello di raggiungerlo, ma non in un modo aggressivo. È solamente la proposizione di un paese libero che si apre a altri che sono interessati da un modo di governo diverso. Io a coloro che sono in ascolto dico: volete davvero credere che non sarebbe maggioranza se in molti comuni che stanno sul confine con la Svizzera si proponessero un referendum e si chiedesse agli elettori di quei comuni, che lo sanno perché ogni giorno quando attraversano la sbarra toccano con mano come funzionano le cose di là, e mediamente sono comuni comunque in cui, rispetto alla media italiana, anche quelli italiani, diciamo, le cose funzionano mediamente bene, ma siccome loro lo vedono da sempre, lo vedono da generazioni come funziona oltre la sbarra, coloro che siete in ascolto e magari da Messina pensiate che sia così offensivo per l'Italia, per l'idea di Stato, ma voi pensate davvero che il giorno che ci fossero quei referendum, finché l'Italia non ha riforme davvero efficienti, la maggioranza dei cittadini non direbbe: ma fateci andare in Svizzera, ma fateci annettere la Svizzera? Io di questo ne sono convinto. Penso anche che il diritto dell'autodeterminazione prevalga nella storia rispetto alle pretese di uno Stato, a quel punto, di reprimere le giuste scelte dei cittadini, che possono votare con le mani, ma possono votare anche con i piedi, e decidere di muovere i piedi tutti insieme significa appunto anche magari decidere che non ci si chiama più in un modo, ma ci si chiama in un altro. Che cos'è questo? È un altro reato quello che sto commettendo? Io non credo affatto. Io credo che la logica di un mondo globalizzato è quello di concorrenza tra ordinamenti, e gli ordinamenti più efficaci, come è giusto, cioè quelli che al minimo delle risorse danno il massimo in cambio di qualità di servizi e sono in grado di attirare risorse, quelli sono gli ordinamenti a cui guardare, non al colore della propria bandiera, come se fosse, e lo dico da patriota, io sono un italiano, amo la divisa, quindi non è questo il punto, però vorrei un'Italia capace in questo, non di dividersi e di non muoversi mai se non al passo di chi è più lento. Bisogna muoversi passo di chi è più rapido. Le informazioni sulla circolazione stradale. 9 in punto, la versione di Oscar. Allora, continuiamo con alcune telefonate sulla vicenda delle parole stato delinquente pronunciate da Bossi, sulla reazione che ha avuto l'Italia dei Valori attraverso il suo segretario di Messina, che ha fatto un esposto alla magistratura, anche al Tribunale dei Ministri, dicendo: no, questo è vilipendio. Sentiamo come la pensa Emilia da Chiavari. Sì? Dica Emilia, come la pensa? Buongiorno. Senta, io penso che sono d'accordo sul fatto che il nostro Stato è uno Stato corruttore, uno Stato in cui purtroppo esiste ingiustizie palesi, e quindi c'è assolutamente da combattere contro questo. Noto anche che è successo soprattutto negli ultimi decenni, per cui non riesco bene a capire come la Lega possa essere credibile comunque su questa posizione. A parte questo, voglio dire, a parte il punto di vista, diciamo, politico, Per cui io vorrei innanzitutto dei politici che ci diano innanzitutto un esempio, perché anche a rigore per esempio di un'onorevole Brunetta, se poi non parte da loro davanti alla crisi, che cosa per esempio che cosa loro hanno in meno? Soltanto noi comuni cittadini ne facciamo le spese. Comunque al di là di queste considerazioni, comunque penso che il linguaggio che sempre usa l'onorevole Bossi, ho usato anche di recente, e da sempre, è un linguaggio inaccettabile per un politico, per un essere, diciamo, che dovrebbe essere ad esempio, una persona che dovrebbe essere ad esempio. Emilia, posso chiedere di precisare meglio, secondo lei è inaccettabile per una questione di stile, di compostezza, oppure è inaccettabile perché viola la legge ed è da perseguire? Perché sono due questioni diverse, il primo è una questione di sensibilità. Per entrambi. Anche secondo lei è oltre la legge comunque? Beh, oltre la legge e anche secondo me il ripendio è il, diciamo, non pensare a come siamo arrivati alla nostra Italia per quanto corrotta, nel senso che ci sono stati milioni di persone dall'Ottocento in avanti, prima, secondo me, io non sono un'anziana, sono un'insegnante, no, certo, 50 anni, cioè, certamente, che sono morte per la questione Italia. Io mi sento veramente, penso che se li volteranno nella tomba ogni volta che parlo l'onorevole Bossi, non è solo per patriottismo, ma è come anche state parlando eventuali adesioni, eventuali referendum per andare a, sì, certo, non ci sarà direttamente, economicamente si sta meglio con l'organizzazione sociale in Svizzera e dunque del nord. E dunque, però dico, non è possibile, cioè noi siamo italiani, cerchiamo di rimettere a posto le cose in casa nostra. Oh, ma sono d'accordo con lei, ma se nel mio arco vitale tocco con mano che gli interessi della politica prevalente, dei 200.000 che campano di politica, sono tali che nel mio arco vitale io non li vedo questi effetti, perché signora, senza mancare di rispetto verso chi è morso sull'Isonzo, nel Carso, verso quelli che come mio padre hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, senza mancare di rispetto per nessuno di loro, che si sono battuti nel loro arco vitale per ciò che consideravano la loro portata, perché non dovrei pensare che a quel punto è meglio che o me ne vado io, o se è possibile faccio andare via un pezzo di Stato a fianco di uno che funziona meglio? Perché non dovrei farlo? Perché dobbiamo considerarla davvero una specie di offesa ultronea al sangue di chi è caduto? Io non penso affatto che sia così. Questa è diventata una delle ragioni, e lo dico con rispetto profondo per chi la pensa come lei, per cui in Italia andiamo al passo, ripeto, di quello che è più debole e del passo che è sempre però intrinseco all'idea che poi che si può cambiare davvero così, ma no, ma su, ma forza, e poi alla fine rimaniamo fermi, e lo dico pensando che moltissimi la pensano come Emilia da Chiavari, moltissimi. Stefano dal Modena, come la pensa? Buongiorno, io intanto faccio una premessa, io lavoro come educatore, quindi lavoro con immigrati, con migranti, con insomma le persone più a rischio di disagio sociale. Io sono assolutamente d'accordo con Bossi, penso che in molte cose lo Stato è delinquente e poi si vede tutti i giorni al telegiornale, non parlo di gossip ma parlo anche di responsabilità istituzionale. Il problema è che Bossi fa parte dello Stato, cioè lo spunto di riflessione è questo. Bossi fa parte dello Stato e fa parte del governo, cioè dello Stato, di quella parte di Stato che governa effettivamente il paese. Quindi i risultati quali sono? Cioè abbiamo dei governi che fanno leggi in una notte. Questo governo ha avuto una maggioranza che è stata unica, perlomeno finché Fini non si è, sì, non si è staccato. Allora, tutte queste mancanze sbandierate sui problemi del sud, sul fatto che ci sono sprechi, eccetera, vengono da una persona che questi sprechi comunque continua a accettare, li sbandiera, ma comunque gli servono. Certo. Cioè, sono la Lega è al governo da un sacco di anni. Cioè, lei sostiene, se capisco bene, che in qualche misura c'è una ragione coessenziale anche alla stessa esistenza e allo stesso successo della Lega, il fatto che poi questi sprechi ci siano, perché questo è il sospetto che ha, altrimenti hanno avuto la possibilità per anni di diminuirli contribuendo a governi che avevano grandi maggioranze. Se non l'hanno fatto, devo pensare che finché ci saranno quegli sprechi ci sarà un ubicon system per ottenere consenso per la Lega, quindi ipoteticamente loro sono i primi interessati a che quegli sprechi e queste inefficienze restino in piedi. È un po' arzigogolato come l'ho messa io o no, Stefano? Sì, l'alleanza che ha fatto con mi ricordo Berlusconi con, sì, il Movimento per l'Autonomia, insomma è stata perlomeno, non ha portato grossi frutti, abbiamo gli sprechi, abbiamo le stesse cose, e mi sembra un po' urlare delle cose in maniera anche insomma semplicistica. Certo. Non porta a niente, cioè si usa questo disagio e si continuano a mantenere tutte. Grazie. Grazie anche a Stefano, perché Stefano dice: nel merito il giudizio è condivisibile, però se uno va a vedere la politica è utilizzato da chi poi, grazie a queste inefficienze e alla loro mancata soluzione, ottiene motivo di consenso. E questa è un'altra costellazione realistica, perché public choice, la grande scuola di public choice, ci insegna che le minoranze politiche sono organizzate in modo tale che il consenso, il motivo di consenso, prevale rispetto al motivo dichiarato della propria azione politica istituzionale. Ultima chiusura della nostra riflessione di oggi. Proprio perché, come diceva Emilia da Chiavari, insegnante, noi abbiamo una storia alle spalle, ma la storia che abbiamo alle spalle è davvero quella che ci raccontiamo? Parlavamo di Cavour all'inizio, perché? Perché quanti ricordano tra voi che Cavour in realtà fino al 1858, fino all'incontro a Plombières con l'imperatore dei francesi, grazie a cui poi nella seconda guerra d'indipendenza faremo un passo avanti con il Lombardo-Veneto, oddio, sui campi di battaglia non troppo, però... Grazie a questo alleato, ecco, a quell'alleato, ancora nel 1858 Cavour mica parlava di Stato unitario, ma se ne guardava bene, lo Stato unitario è figlio di un processo casuale di eventi, perché il signor Cavour aveva in testa un'Italia a confederazione, un'Italia in cui c'era un regno del nord, è chiaro, il regno di Sardegna che si espandeva, c'era con parte dei ducati, c'era un regno centrale con la Toscana, il resto dei ducati e parte degli stati della Chiesa, e poi c'era il Regno del Sud con i Borbone. Questa era l'idea di Cavour. E allora, visto che siamo nel 150esimo, abbiamo con noi Gilberto Neto, che è direttore editoriale dei Quaderni Padani e che scrive anche sul Giornale, che è una figura di riferimento per l'approfondimento storico-culturale della battaglia federalista nel nostro paese, che io conosco e stimo da molti anni. A Gilberto Neto gli chiediamo di rinfrescarci un secondo la memoria, perché questa tradizione così unitaria di un processo unitario che fino a pochi mesi prima della spedizione garibaldina aveva in testa nel premier del Regno Sardo tutt'altro disegno, forse dovremmo raccontarcela come un evento casuale, e gli eventi casuali, che dopo 150 anni non danno grandi frutti, forse potrebbero farci utilmente tornare a chi invece concepiva sin dall'inizio la via federale. Oneto, è così o no? Buongiorno a tutti. Sì e no, nel senso che sicuramente fino ad allora quasi tutti, tranne Mazzini e pochi altri, pensavano, avevano in mente un progetto di confederazione di stati italiani, di stati esistenti o di stati modificati. Quello che lei ha citato, che era stato concordato a Plombières, era il mitico Regno del Nord, quello che Cavour chiamava il grande grasso belgio della pianura padana, cioè un grosso stato cuscinetto, tranquillo e ricco. Usava terminologie che qualcuno potrebbe pensare leghiste oggi. Assolutamente sì. Che poi Cavour avesse davvero questa intenzione, beh, su questo abbiamo tutti dei dubbi, visto come si sono poi risolte le cose. In ogni caso, tutti i grandi pensatori del Risorgimento, quelli che a scuola ci raccontano avessero scritto i grandi libri che hanno risvegliato questo movimento storico, Gioberti, Rosmini, eccetera, eccetera, pensavano ad una confederazione di stati, e molti di loro in questa confederazione vedevano uno Stato del Nord, un Regno del Nord. Addirittura Cattaneo era della stessa opinione, ma addirittura gli austriaci, Radetzky e l'arciduca Massimiliano avevano in mente qualcosa del genere. La storia non è come se la raccontano sempre di scuola. Ecco, ma venendo dalla scuola a quello che istituzionalmente e politicamente si può fare oggi, secondo lei, Oneto, bisogna rassegnarsi o invece c'è una strada possibile per chi è federalista davvero e non vuole morire parlando solo, ma vuole che i propri figli vedano qualche cosa che cambia in concreto? Beh, mi sembra che i movimenti verso queste soluzioni ce ne siano. Ho apprezzato moltissimo l'intervento del nostro amico svizzero, perché anch'io come lei, come dottor Miglio, vediamo nella Svizzera il grande sogno, il riferimento, quello che avremmo potuto essere e non siamo stati, ma nulla è perduto. Mi rendo conto che è molto difficile in un paese dove si beccano le denunce perché si esprime un'opinione, però perché non continuare a provarci? E uno dei modi per continuare a provarci è anche di rivedere questa storia, di raccontarcela giusta, se ci diciamo. Esatto. raccontarcela giusta in questo 150esimo è l'impegno che io mi prendo con i miei piccoli ascoltatori. Finché sarò qui e qualcuno mi darà un microfono, io continuerò a dire numeri alla mano, e non per invitarvi a votare un partito, che questo è uno Stato corruttore, che questo è uno Stato ladro, e se voi non reagite è perché vi hanno insegnato non a essere sudditi, ma vi ci hanno fatto diventare con la paura di protestare contro chi vi ruba i soldi dalle tasche e in cambio vi dà servizi che sono inqualificabili. Non è vero che il politico pro tempore è lo Stato, e non è vero che non si può parlare male del politico pro tempore e dello Stato. Quindi io difendo il diritto dell'onorevole Bossi di dire che questo è stato delinquente, anche se lui è ministro e anche se forse ha l'interesse che nel tempo non si risolva troppo bene, perché così la Lega abbia più voti. Questo è giusto, è giusta questa osservazione, però io da cittadino e da chi fa informazione dico che finché ci saranno dei numeri da dare di quel tipo noi li daremo. Ringrazio Matteo Salvini, Gilberto Neto, Oscar Freisinger, Salvatore Mammola, e ringrazio in regia Paolo Corleoni e Alessandro Marco Tulli in redazione. Nel dare la linea al giornale radio vi ripeto che l'appuntamento con me è a lunedì tra una settimana, mentre invece a sostituirmi dopo Ferragosto è Gianfranco Fabi, l'ex direttore qui di Radio 24, che saluto nel dargli il testimone. A presto. Radio 24, la passione si sente.